te, dopo tanto tempo perso, io e te, per un amore un po' diverso, io e te, fermi sotto il nostro cielo. Io e te, scesi da cavallo, io e te, rimpiangendo quello sbaglio, io e te, dove due più due fa tre. Io e te, per una storia che fa male. Io e te, per un amore troppo uguale, fatto a pezzi e gettato per le scale, e dove nessuno mai più salirà, neanche nei sogni. Io per te non ho mai scritto una canzone, io per te non ho trovato le parole, io per te, per una nota un po' diversa. Ma io per te, seduto davanti a un pianoforte, io con te, ho vissuto un po' della mia vita, e accanto a te, la sento sotto le mie dita. Non guardarmi, sono solo un po' invecchiato, forte sempre di quello che poi ci ha cambiato. I ricordi, credi, non sono mai esistiti, è solo realtà ciò che ci lega oggi e mai ci separerà.